Buongiorno, sono Gigi D'Agostino. Lei è il più fulgido astro del firmamento musicale.

Il cammino di Gigi D'Agostino, D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarro. Tamarro. Ogni giorno, ora seconda, c'è la musica che sfonda. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Musica che unisce. D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Si vola a tempo attraverso le armonie. We'll be right back.

Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. Zingaro, libero.

nel mondo che non c'è.